Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e purtroppo anche oggi devo chiedere scusa per la cattiva qualità della voce, complice questa tonsillite di cui non fregherà nulla nessuno, però purtroppo non mi permette di condurre come al solito, ma i temi ci sono e ci sono tutti oggi, perché ci occuperemo in apertura soprattutto quello che sta capitando sulle politiche economiche di casa nostra. Mi riferisco all'IMU, l'ipotesi uscita di un rinvio a settembre è solo per la prima casa, e anche l'ammonimento del Fondo Monetario Internazionale che dice ogni riforma fiscale in Italia deve far parte di una strategia più ampia per rendere il sistema delle tasse più efficiente e giusto. Ci occuperemo di IMU, di rata dell'IMU, ma anche delle semplificazioni del credito alle imprese. Nella seconda ora invece parleremo di Europa, lo faremo con il vicepresidente della Commissione Europea, nonché colui che ha anche la delega al settore imprese e industria in Europa, mi riferisco ad Antonio Tajani, per capire se adesso si passerà anche dalle parole ai fatti su un'Europa non solo di austerità, ma anche di crescita. Parleremo però anche del Consiglio dei Ministri, perché da lì potrebbero arrivare notizie importanti. Dovrebbe iniziare alle 17, quindi 18, scusatemi. Si analizzerà soprattutto l'IMU e soprattutto il miliardo da trovare per la cassa integrazione in deroga. Ne abbiamo parlato ieri con il sottosegretario al welfare, al lavoro, e mi riferisco a Carlo Della Ringa. Perfetto, lei scrive un ascoltatore, lei non dovrebbe chiedere scusa della voce ma delle cavolate, scrive in un altro modo che dice, va bene, chiederò scusa anche delle cavolate che dice, dico. Tra l'altro iniziamo subito a chiedere scusa, mi hanno fatto notare alcuni ascoltatori che in America, negli Stati Uniti, esiste la banconota da $1,000, non esiste quella da 500. Abbiamo fatto una verifica, chiedo venia, evidentemente non l'ho mai vista in vita mia la banconota da $1,000, il resto dell'idea che l'euro, la banconota da $500 dell'euro, non serve a nulla se non ad aiutare molto ad esportare i capitali all'estero. Ancora per quello che riguarda i temi, dicevo, al di là del Consiglio dei Ministri dell'austerità / politiche per la crescita, la borsa oggi conosce più di un caso, a partire dalla Banca Popolare di Milano, -8,90%, non riuscì a fare prezzo all'inizio delle contrattazioni, quando è arrivato uno stop al percorso di trasformazione della Banca Popolare in SPA, che la rende più contendibile, ed è per questo motivo che la Banca Popolare di Milano molto è cresciuta in queste ultime settimane. Snam -5%, Prismian -4,20%, Popolare Emilia Romagna -4%, Terna -3,17%, Mediobanca -2,60%, Unicredit -2,50%, come Atlantia, Viasori -2,30%, Ubibanca -1,90%, come Campari. Chi guadagna? Fondiaria Sai il 3,40%, Telecom l'1,80%, Mediaset l'1,40%, come Fiat Industrial e Lottomatica, Azimut l'1,30%. Complessivamente l'indice di Piazza Affari perde l'1%, Parigi è -0,80%, Francoforte invece è invariata, Londra invariata anch'essa, l'America invariata, quindi nessun grosso movimento oggi sulle borse. I numeri come sempre 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook, le notizie in breve. Ne abbiamo parlato ieri ampiamente, ma insomma ieri sera Wall Street ha chiuso ancora a livelli record, lo voglio ricordare perché ha toccato un nuovo primato a 15.105 punti l'indice Dow Jones, segno che, appunto, che c'è una borsa che sta scommettendo in maniera molto forte sui titoli, ma ai massimi da sempre anche l'indice Standard & Poor's 500 a 1.632 punti. Il Nasdaq invece non è ancora ai massimi, ma lì i massimi sono relativi al 2000-2001. Ancora la Banca Centrale Europea ha fatto sapere che si avvia a tagliare ulteriormente i tassi di interesse, ma soprattutto che il taglio effettuato la settimana scorsa ha l'obiettivo di contribuire a mantenere le prospettive di ripresa nel resto dell'anno. In Corea del Sud la Banca Centrale ha tagliato lo 0,25% i tassi, li ha portati al 2,5%, ma questo per inciso, la Banca Centrale ha chiesto comunque di accelerare con le riforme strutturali nei paesi dell'area euro. Ancora, il presidente della Banca Centrale tedesca Hans Widmann ha messo in guardia la Francia da allentare la politica del rigore. Siete un paese decisivo dell'unione monetaria e la Francia deve dare l'esempio proprio ora che ci siamo dati regole più stringenti per ridurre il deficit. Non dobbiamo mettere in discussione la sua credibilità. Nel frattempo la Grecia ha visto aumentare la disoccupazione al 27% a febbraio e quella giovanile ormai tocca una cifra assurda, cioè il 64% di tutti i greci tra i 15 e i 24 anni. E poi dicevamo del Fondo Monetario che oggi attraverso il portavoce Gary Rice ha detto che l'Italia deve proseguire l'obiettivo di un bilancio che rispetti gli impegni in Europa. E poi ha detto al neo primo ministro Enrico Letta la priorità in Italia è il lavoro per i giovani. E su questo devo dire che, intervenendo all'assemblea annuale di Rete Impresa Italia, il ministro al lavoro Enrico Giovannini ha detto che la cosiddetta staffetta generazionale è una delle possibili soluzioni e delle misure allo studio, come ha spiegato appunto ai microfoni della nostra Alessandra Schepisi. È una delle possibili soluzioni. Sappiamo bene che abbiamo bisogno di aumentare l'occupazione giovanile in tutti i modi, sappiamo anche che abbiamo bisogno di riequilibrare la situazione tra le generazioni. Questa è una delle misure allo studio, ce ne sono molte altre. Le pratiche internazionali su questo tema sono molto ampie, noi stiamo lavorando proprio con l'OCSE per prendere le migliori pratiche e riuscire in questo modo a dare delle risposte a breve termine. Un incentivo? Come dicevo, gli schemi possono essere diversi, in alcuni casi ci sono anche dei costi finanziari, il meccanismo di cui molti hanno parlato prevede naturalmente degli incentivi e di conseguenza, dati i vincoli di bilancio, dobbiamo bilanciare le diverse esigenze. E proprio nella presentare l'Assemblea Annuale di Rete Impresa Italia, uno studio effettuato con il CER stima che, in assenza di una sensibile accelerazione della crescita, le imprese italiane potrebbero trovarsi a licenziare tra i 400 e i 650.000 dipendenti. Lo Svimez nel frattempo oggi ha stimato in 300.000 i posti di lavoro persi nel sud in 4 anni, la metà dei quali nell'industria, e la competitività, questo dato emerge sempre dall'analisi di CER Rete Impresa Italia, Tra il 2007 e il 2013 la nostra è crollata del 5%, quella tedesca è cresciuta del 6%. Dura presa di posizione del Ministero dello Sviluppo e delle regioni Emilia Romagna, Veneto e Piemonte, assieme al comune di Coppola, la provincia di Ferrara, contro la decisione della Berco, azienda del gruppo Thyssen, di chiudere lo stabilimento di Copparo nel ferrarese, avviando formalmente la mobilità per 611 lavoratori in tre fabbriche italiane. Dice il Ministero e le tre regioni che dall'azienda è arrivato un vero e proprio atto di ostilità. Allora, non vorrei tornare sull'annosa e la vexata questione, ma insomma, le banche stanno prestando sempre meno. Poi possiamo dire che prestano meno perché gli imprenditori chiedono meno soldi, a noi risulta un po' diversa la situazione. Possiamo dire che i soldi che vengono chiesti sono solo per pagamenti correnti, possiamo dire che le banche hanno una crescita molto forte delle sofferenze, ormai raggiungono il 21,7% rispetto al 18% di febbraio, però insomma la Banca d'Italia oggi fotografa un dato inequivocabile. A marzo infatti i prestiti alle famiglie sono scesi dello 0,8% rispetto a marzo 2012, quelli alle società non finanziarie, cioè servizi e manifattura, sono scesi di un altro 2,8% dopo il 2,7% di febbraio, che vuol dire che il calo, la contrazione dei prestiti alle imprese è tre volte più forte rispetto a quella dei prestiti alle famiglie. Però a marzo la raccolta delle banche va bene, più 7%. Allora, le banche raccolgono, ma hanno difficoltà a impiegare, mettiamola così, tranne che comprare bot, strumenti finanziari, così, hanno difficoltà a impiegare, cioè a rimettere in circolo questi soldi. Lo dice lo stesso Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Io non dico che debbano farlo senza sana e prudente gestione, ma devono comunque tornare a investire nelle società che meritano. Non è possibile che un personaggio come Giovanni Tamburi, ieri, che gestisce 1,5 miliardi di euro, ci abbia raccontato come lui investe in società italiane, compra pezzi di società italiane, e le banche non riescono a farlo, lo fanno solo quando uno è molto grosso e dà 1000 garanzie. Dai, su. Allora, la crisi e l'effetto super ticket in vigore da metà del 2011 su visite specialistiche ed esami. Beh, per la prima volta grazie al super ticket c'è stato un calo medio delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, un calo pesante dell'8,5% rispetto nei primi sei mesi del 2012 rispetto ai primi sei mesi del 2011. E tra l'altro è un flop vero e proprio, perché il ticket da 10 euro su visite specialistiche ed esami nelle casse delle regioni che hanno fatto approfondimenti specifici mancano almeno 300 milioni di euro, perché le entrate si sono dimezzate attestandosi tra i 400 e i 500 milioni, mentre la copertura da parte dello Stato era di 834 milioni. Adesso arriviamo all'IMU e alla stangata che rischiano soprattutto le imprese, come scrive oggi su Sole 24 Ore Gianni Trovati. Però ho un po' di notizie su come si sprecano i soldi pubblici e anche invece su come ci si arrabatta, la gente normale si arrabatta per proseguire e superare questa crisi finanziaria. Quindi 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Abbassale interessa più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, interessa più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, interessa più. Auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu, interessa più. Allora, negli Stati Uniti li chiamano People Supermarket, in realtà sono supermercati per persone e famiglie in difficoltà, gestiti da associazioni di volontariato. Il concetto è quello del banco alimentare, ma in questo caso il pane di prodotti non è selezionato dai volontari, ma esiste un vero e proprio punto vendita in cui le persone possono scegliere e acquistare. Ora, il supermercato della gente è arrivato in Italia, l'ultimo nato è a Modena e offre la spesa in cambio di ore di volontariato. Aprirà a metà giugno, si chiamerà Emporio Portobello e sarà gestito dal Centro Servizi Volontariato della città, un ruolo primario giocato dai servizi sociali del Comune di Modena, che daranno alle famiglie la possibilità di accesso all'Emporio sulla base di dati verificabili, quali il reddito dichiarato e le caratteristiche della disoccupazione. La cosa interessante è che si caricano dei punti sul codice fiscale e si paga in ore di volontariato. A riempire gli scaffali sono aziende, ma anche i privati e i ricavi delle raccolte alimentari. Il market sarà gestito interamente da volontari e a Parma un'iniziativa simile, nata 4 anni fa, sfama ogni anno 700 famiglie, riceve richieste da oltre 2000 e nel 2012 ha venduto appunto in cambio di volontaria di ore di volontariato generi alimentari per quasi 1 milione di euro. Oh, questa notizia arriva da Avigliana, Torino. Più precari di così non si può, al punto che nemmeno lo stipendio è garantito. Perché cosa è successo? 8 scuole pubbliche, un centinaio di docenti, oltre 1000 allievi, vedevano lavorare lì anche 12 supplenti temporanei, che lo scorso mese, per ricevere lo stipendio, si sono dovuti affidare alla debendata, alla fortuna. Infatti è stata indetta una lotteria, l'ha organizzata Carla Barella, la preside. Dice: i fondi ministeriali sono insufficienti per pagare le supplenze e allora abbiamo sorteggiato il personale che verrà retribuito subito. Le persone non sorteggiate verranno retribuite non appena il ministero ci darà i soldi. E in 5 sono rimasti a bocca asciutta, perché in cassa c'era solo la metà dei 13.000 euro necessari per tutti gli accrediti. Non ci sono i soldi nemmeno a Napoli, nelle circoscrizioni, nelle municipalità della seconda e la settima, non ci sono i soldi per le fotocopiatrici, quindi gli uffici comunali sono rimasti senza fotocopiatrici. Hanno spiegato il consigliere comunale Mimmo Palmieri che l'azienda di noleggio se le riprese perché il contratto è scaduto, non è stato né rinnovato né prorogato. Adesso un appello al neo presidente, governatore della regione Sicilia, Rosario Crocetta, in cui molto abbiamo creduto, gli abbiamo fatto gli elogi per i repulisti, la pulizia, per l'eliminazione delle province. Però Crocetta, lei aveva rispedito in Sicilia il giornalista da 12.000 euro al mese, richiamandolo dall'ufficio della regione Sicilia a Bruxelles, a Palermo. Poi a Palermo era stato bravo a liquidare in blocco l'intero ufficio stampa con 24 capi redattori. Benissimo, abbiamo applaudito. Ora, anche perché l'ufficio stampa della regione Sicilia aveva più giornalisti di quello di Barack Obama. Ora io capisco l'importanza della regione Sicilia, ma mi sembrava eccessivo, no? Quello che non capisco, caro Crocetta, è perché dopo queste virtuose e veramente plaudibili iniziative, lei a distanza di 6 mesi abbia riscoperto la sede di Bruxelles, e il modernissimo ufficio da 750 metri quadri acquistato a suo tempo da Raffaele Lombardo per 2.700.000 euro, e ha deciso di piazzarvi 16 funzionari con moltiplicandoli praticamente, sono 8 interni e altrettanti esterni che avranno a testa 50 metri quadri, c'è cioè un mini appartamento per lavorare, ma dai, per la regione Sicilia e Bruxelles, ma che devi fare? Giochi a tennis, a ping pong, scusami. Ma è un calcolo ancora improprio, pensate che la ristrutturazione di questa sede è costata 500.000 euro, perché hanno fatto arrivare il marmo, quello fu Raffaele Lombardo, hanno fatto arrivare il marmo dalle cave vicino a Trapani. È vero che a Trapani, se uno sale, vede benissimo le cave da Trapani, perché il marmo, diciamo, della regione Sicilia non poteva essere un granito qualunque, doveva arrivare da Trapani. E il tra l'altro lo ha scelto Lombardo, che aveva chiuso la vecchia sede che costava 350.000 euro l'anno e ha acquistato in contanti la nuova dimora. Crocetta, ma volete chiuderlo sto ufficio a Bruxelles? Non serve a niente, non serve a niente. Cosa serve l'ufficio della regione Sicilia e Bruxelles, della regione? Lo eliminateli tutti, fate un unico ufficio per le regioni italiane. Ma che lobby volete fare a Bruxelles se non ci riesce il governo nazionale? Adesso mi sta impazzendo la tonsilla, fra un po' la espello. Ma se non ci riesce il governo nazionale, se Letta va e deve contrattare ogni singolo comma, cosa vuole contrattare la regione Sicilia con 18 addetti alla modica cifra di 2.600.000 euro per comprarlo e 500.000 per restaurarlo? Ma la vogliamo piantare? Pure lei ci si mette. Vabbè, chiudiamo con i dipendenti dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura. C'è una causa in corso la Regione Veneto contro il governo, perché non possono più usare l'auto, le auto di servizio, perché il governo ha imposto un drastico taglio dei costi per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'uso dell'auto di servizio. E allora l'assessore regionale bilancio Roberto Ciambetti ha detto: rischiamo di dover sospendere non tanto l'uso di auto blu, ma i servizi che garantiscono la sicurezza del Veneto. Braccio di ferro, vedremo come andrà a finire, anche perché le deroghe indicate dal legislatore riguardano solo i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e altre pochissime eccezioni. Basta, non ce la faccio più. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Grazie per i molti consigli su come curare le tonsille, fa piacere. C'è poi chi dice: ma insomma, io le tonsille le ho tolte a 6 anni, dov'è che era bellissima, aspettate che le riprendo. Le ho tolte a 6 anni, i conduttori di Radio 24 dovrebbero avere l'obbligo della tonsillectomia. Vabbè, e perché non anche la vasectomia, così la facciamo prima, dai, ma che è sta roba? Oh, addirittura l'obbligo. Allora andiamo avanti, dai, perché oggi, come scrive Sole 24 Ore, Gianni Trovati nella precisione, beh, insomma, c'è il rischio di una super rata IMU per le imprese. Con le scadenze del prossimo 17 giugno si potrebbero infatti registrare aumenti fra il 50 e il 200% per industrie, negozi, alberghi e centri commerciali. Il decreto Salva Italia infatti ha già previsto un aumento dell'8% per i valori fiscali di capannoni e immobili strumentali, e poi l'aliquota verrà stabilita su base locale, non più sul parametro standard del 7,6 per mille. Ad esempio, un capannone industriale di 2.000 metri quadri nell'area di Milano, che nel 2012 aveva versato 12.000 euro, quest'anno dovrà pagare 18.000, 6.000 in più. A Roma si passerà da 11.000 per lo stesso tipo di capannone a 18.000, a Napoli da 12 a 18.000. Per un albergo da 1.000 metri quadrati in centro a Milano si sale da 13.000 a 20.000 euro di IMU, a Roma da 13.000 a 21.000, a Napoli da 12.000 a 18.000. Un negozio di 100 metri quadri in centro pagherà, invece che 1.300 euro dell'anno scorso, 1.800 euro a Milano, da 2000 a 2008 passerà da 2000 a 2008 a Roma, da 500 a 740 a Napoli. Infine un ufficio, sempre come esempio, da 250 metri quadri in centro passerà come IMU da 3800 a 5300 euro a Milano, a Roma da 3700 a 5100 euro, a Napoli da 1400 a 2000 euro. E alle 18 si riunisce il Consiglio dei Ministri, che ha all'ordine del giorno proprio la questione IMU e quella del rifinanziamento della cassa integrazione in deroga. Ringrazio allora per averci aggiunto in collegamento Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, che proprio oggi scrive un fondo il cui titolo è abbastanza esemplificativo: L'alba nera del 17 giugno. Buonasera Guido. Buonasera a voi. Che capita il 17 giugno? Perché io già sto male di tonsille, non è che vorrei. Dimmi. Capita che avremo la sospensione della rata, come certificherà oggi il Consiglio dei Ministri da poche ore, la sospensione della rata estiva, parliamo di quella di giugno, poi vedremo quello che succederà dopo per quanto riguarda il pagamento della prima rata IMU per la prima casa. Ma il 17 giugno è una data purtroppo cattiva per invece moltissimi altri italiani, cioè quelli che, come hai ricordato tu, possiedono, sono magari titolari di imprese, possiedono capannoni, beni comunque immobili strumentali alla loro attività produttiva. Il discorso riguarda i negozi, gli uffici, che per tutto un complicato meccanismo che oggi il giornale spiega nei dettagli, si troveranno a pagare molto di più rispetto alla già stangata del 2012, che a sua volta aumentava di molto il carico fiscale nei confronti di quello che della vecchia ICI. Quindi questa è una mazzata ulteriore che si profila per l'attività produttiva in questo paese, che sappiamo che l'economia reale è bloccata, i problemi sono enormi, ma di questo tema purtroppo si parla poco, perché il dibattito verte o sulla prima casa o sulla riduzione del costo del lavoro, del famoso cuneo fiscale, e quindi certamente due dati assolutamente fondamentali per certi aspetti: il primo, la prima casa, per la percezione che si ha in questo paese dove tutti sono proprietari di casa; il secondo, perché oggettivamente ci pone fuori dalle medie OCSE praticamente di tutto il mondo, al record mondiale del cuneo fiscale. Quindi sono interventi che si dovrebbero fare, ma si dimentica che poi l'IMU non è solo prima casa, è anche appunto tassazione, vale 23 miliardi la tassa, e anche tassazione appunto dei capannoni industriali, per dirne una, e di questo si parla poco, colpevolmente, perché invece la stangata sarà violentissima. Allora, l'IMU sulla prima casa vale 4 miliardi. Per sì. Carità, sempre meglio non pagarli, però io sono d'accordo con quanto ha detto Squinzi: se devo fare una manovra la faccio sulle tasse sul lavoro, in busta paga, sui dipendenti, su chi le tasse le paga, perché chiaramente sono sottratte alla fonte. Perché dico? Perché è lì fai ripartire i consumi. Io non vorrei che poi un risparmio in alcuni casi 400, 500, 600 euro di IMU non portasse a nulla, cioè uno le tiene in banca e non cambia nulla. In linea di principio sono d'accordo anch'io su questo, ma come ho risposto proprio oggi nella rubrica delle lettere a un lettore del Sole 24 Ore, occorre tener conto anche delle condizioni strutturali di questo paese, cioè che questo il 60% o oltre il 65% della ricchezza degli italiani è riferita al patrimonio immobiliare, e che l'80% degli italiani sono proprietari di case, che l'edilizia ha un ruolo fondamentale in questo paese, lo ha sempre avuto in termini anche di occupazione e di possibilità di ripresa. E tutte queste cose possono far riferimento, non vanno dimenticate in un ragionamento che riguarda anche la prima casa, anche la tassazione sulla prima casa, perché su questa c'è una percezione molto forte a livello sociale, di come il fisco sta pressando in questo momento. Quindi non sottovalutare questo aspetto, pur dicendo ovviamente che non possiamo dimenticare l'IRAP per questo o ovviamente la riduzione del cuneo fiscale. No, ma poi però tu fai giustamente notare che mentre quella sulla prima casa vale 4 miliardi, quella sugli immobili industriali, alberghi, capannoni, uffici, negozi, ne vale 23. Allora qui ci sono due possibilità: quando aumenterà dal 50 al 200%. Perché qui non c'è nessuna ipotesi che venga levata questa IMU, giusto Guido? Si parla al massimo di un posticipo della prima casa, ma non, per ora non abbiamo visto. Assolutamente, si parla di un posticipo che tra l'altro è riferita al, diciamo, si rimanda l'appuntamento a settembre, quindi insomma è tutta una partita aperta questa. I 23 miliardi comprendono anche i 4, diciamo, della prima casa, quindi voglio dire, sì. Però è però evidente voglio che, dire, che no, la prima casa non è la prima casa non è decisiva da questo punto di vista. No, ma dico, è chiaro che chi poi vedrà questi aumenti dal 50 al 200% di IMU o rinuncia a un po' di profitti, quindi risparmia ancora di più e quindi va in contrazione, oppure li scarica sui prezzi finali per il cliente, cioè non c'è dubbio. Sì. Mi piace molto la battuta, a dicembre potremo condire il motto in dolore tares, va bene, e qui la tassa sui rifiuti, e farei ascoltare però dopo il traffico anche cosa hanno detto oggi sia il ministro del lavoro Giovannini sulle tasse alle imprese, sia il presidente di Confcommercio e di Rete Imprese per l'Italia Carlo Sangalli, sempre per l'IMU sulle imprese. Poi anche il ministro dello sviluppo economico Zanonato ha parlato di fisco sulle imprese e semplificazioni fiscali. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Grazie ancora per tutti i consigli che mi state dando per queste tonsille, dallo zenzero, rimedi diciamo naturalistici, rimedi omeopatici, quant'altro. Non li conosco tutti. C'è chi scrive, le consiglio il metodo Sasha Gray, deve essere un medico straniero. La luce in fondo al tunnel della crisi davvero non si vede ancora. Senza crescita e coesione l'Italia è perduta. Se ne traggano dunque tutte le conseguenze, conseguenze che sono strettamente collegate con le quattro priorità del nostro manifesto: fisco, credito, semplificazione, lavoro. Parto dalla prima, il fisco. Si metta mano ad un processo realistico ma determinato di riduzione dei livelli record di pressione fiscale, bonificando la spesa pubblica senza timidezza alcuna, con l'avanzamento del processo di controllo, riqualificazione, riduzione della spesa pubblica improduttiva, contrastando evasione ed elusione fiscale e muovendo dalla riduzione del cuneo fiscale contributivo sul costo del lavoro. E intanto si disinneschi la miccia del micidiale combinato mal disposto fiscale dell'estate ormai alle porte, cioè dell'ulteriore aumento dell'IVA, del debutto della TARES e del pagamento dell'IMU. In particolare l'IMU va esclusa dagli immobili strumentali all'attività di impresa, estendendo anche a questi immobili la sospensione del versamento della rata di giugno ipotizzata per le abitazioni civili. Così Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio e di Rete Imprese per l'Italia, oggi nella loro assemblea annuale. Devo dire, per rispondere agli ascoltatori, che ho capito benissimo che si preferisca parlare dell'IMU sulla prima casa perché coinvolge milioni di elettori, mentre Guido, l'IMU sui capannoni coinvolge migliaia di imprenditori, ma non milioni, no? Cioè, c'è un elemento politico. Vorrei farti ascoltare però anche cosa ha detto il ministro allo sviluppo economico Zanonato, Flavio Zanonato, al microfono della nostra Alessandra Schepici, dopo appunto il suo intervento e l'assemblea di Rete Imprese Italia. Per quello che riguarda me, vorrei impegnarmi soprattutto in due direzioni: rendere effettiva questa cosa del pagamento delle pubbliche amministrazioni in direzione delle imprese, perché c'è un bisogno assoluto di liquidità e questo è il primissimo. Vedere poi cosa si può fare per ridurre i costi, che sono iniziative varie, e infine una cosa a cui tengo molto e su cui mi applicherò è la semplificazione. Poi non lo so quante cose riusciremo a fare, ma su queste mi metto a lavorare. Senta, ridurre la pressione fiscale, hanno chiesto oggi con forza sì. Le imprese. Beh, intanto precisiamo che nessuno ha piacere ad aumentare la pressione fiscale, non è che c'è uno che dice che bisogna aumentare la pressione fiscale, questo soggetto non esiste. Però tutti sanno che un bilancio si chiama così perché le entrate devono equivalere alle uscite. Quindi per poter ridurre la pressione fiscale bisogna o ridurre le uscite o trovare nuove entrate. Infine c'è una cosa molto importante, che è la cosa che spesso diciamo quando si parla di rendere più elastico il patto di stabilità, significa accetta di farci fare del debito, perché questo debito non lo consumiamo in modo passivo ma lo reinvestiamo e le entrate arriveranno con un tempo un po' differito. Per questo occorre la credibilità. Ecco il punto importante, credibilità. Per poter aver credito bisogna, come dice la parola, essere credibili. Allora Guido Gentili, fammi una previsione, ce la farà il governo, perché il Consiglio dei Ministri inizia fra 10 minuti, sì, a reperire le risorse per IMU, o qua si va solo verso un posticipo fino a settembre e poi vediamo cosa capiterà in Europa, che margini avremo? Io credo che per il momento ci si limiti a due provvedimenti, al rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, sì, 1,2 miliardi, e alla sospensione della rata prima casa IMU del 17 di giugno. Sospensione non vuol dire eliminazione? No, sospensione non vuol dire eliminazione, e nei giorni scorsi Letta ha parlato di in vista del, apro virgolette, superamento, chiude virgolette, della tassa IMU. Questo significa che da qui a settembre dovrebbe essere messo in pista, in cantiere, il profilo della nuova tassa, perché a settembre ci sarebbe, diciamo, la seconda tranche, e poi a dicembre sarebbe l'ultima, no? Perché a seconda di come si paga sono due tranche o tre tranche. Quindi superamento significa che si ridisegna la tassa, sì, e vedremo che cosa si pagherà e quanto si pagherà. Per ora ci sarebbe solamente la sospensione della rata di giugno. E appunto il rifinanziamento 2 miliardi vale 2 miliardi questa. Sì, e poi il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, come ci ha spiegato ieri il sottosegretario Carlo Della Ringa. Grazie a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Quanto ho ancora 2 minuti, volevo far sentire il ministro Giovannini sull'esigenza di ridurre la pressione fiscale sulle imprese. La pressione fiscale va evidentemente ridotta compatibilmente con i vincoli che conosciamo tutti benissimo, e proprio la distribuzione di questo carico è altrettanto importante. Il governo è al lavoro su tutti questi aspetti e proprio nelle prossime ore, nei prossimi giorni riusciremo a mettere insieme, anche grazie a questo incontro di tutto il governo fuori Roma, appunto una strategia. Mi rendo conto che c'è una forte urgenza che stiamo affrontando, che dobbiamo affrontare, ma anche il bilanciamento delle diverse esigenze non è facile. È appena arrivata la notizia che entra nell'alveo di quello che stiamo dicendo, cioè le nuove mazzate fiscali che arriveranno. Perché se il 1 gennaio 2014 entreranno in vigore, leggo assieme a voi, i nuovi ticket, cioè ci saranno 2 miliardi di nuovi ticket da aggiungere agli attuali 2 miliardi di euro, chiaramente, si rischia per visite ed esami un salasso di 350 euro a testa contro gli attuali 150 euro a testa. Un impatto che il sistema non regge se non si amplia la platea dei paganti. Questa notizia è appena battuta. Adesso andiamo verso il GR. Di nuovo grazie a tutti voi che mi date consigli per questa tonsilla maledetta. Mi avete anche spiegato che il metodo Sasha Gray non è un metodo di un medico britannico. Ho capito. 18 e 8 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora adesso passiamo alla borsa, poi al Consiglio dei Ministri, poi il nostro ospite, il vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani. La borsa, dicevamo, oggi negativa a Milano, in linea con Parigi, meno 0,90 Milano, meno 0,70 Parigi, positiva anche se di poco Francoforte, più 0,16, Londra più 0,14, l'America in questo momento è invariata. Il caso di borsa di oggi si chiama Banca Popolare di Milano, che ha perso l'8,93%. Livia Zancaner, Radio Colle sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Parla tu che oggi non ce la faccio. Popolare Milano. Sì, allora la Popolare di Milano ha perso quasi il 9%, come dicevi tu. A Milano sono andate male tutte le banche colpite dai realizzi dopo il rally dei giorni scorsi. Per quanto riguarda la Popolare di Milano, il titolo ha risentito delle indiscrezioni relative allo stop del progetto di trasformazione della banca da Popolare a società per azioni, un progetto che è contrastato dai dipendenti e dai sindacati e un progetto che sarebbe dovuto partire a giugno con l'assemblea dei soci della Popolare di Milano. A giugno verrà dato probabilmente il via all'aumento di capitale da 500 milioni di euro, mentre probabilmente il voto sulla modifica in società per azioni potrebbe essere posticipato all'autunno o anche più avanti, quindi le azioni ne hanno risentito realizzando la peggiore performance sul paniere principale del listino italiano. E come dicevi tu, al di là del caso della Pop Milano, negative tutte le banche, Emilia Romagna meno 4,30%, Unicredit meno 2,45%, Ubibanca meno 2%, Intesa meno 1,70 e ancora Monte dei Paschi meno 1,40 percento. Le banche comunque erano cresciute molto nelle ultime due sedute. Mediolanum, che molto era salita in attesa dei conti. Sì, Mediolanum ha avuto una performance, diciamo così, negativa per quasi tutta la giornata, per poi girare in positivo e guadagnare lo 0,37%. I conti del primo trimestre hanno mostrato un utile in calo di oltre il 20%, ma la società ha specificato che si tratta comunque del secondo miglior trimestre di sempre, quindi il mercato ha poi premiato il titolo, che ha chiuso in territorio positivo. Allora, Snam, Rete Gas, meno alla fine ha chiuso in calo del 5,1%. Sì, Snam ha chiuso in calo del 5% a 3,6 euro per azione. La società ha risentito della notizia secondo cui l'azionista Eni ha collocato un pacchetto di quasi il 12% di azioni a 3,69 euro per azione, prezzo inferiore rispetto alla chiusura di ieri sera, 3,8 euro. Il mercato ha quindi penalizzato il titolo che si è quindi allineato al valore del collocamento. Ricordiamo che a seguito dell'operazione Eni rimarrà comunque azionista di Snam con una quota dell'8,5% circa. Effetto positivo dei conti su Fondiaria SAI, che è il miglior titolo tra quelle maggiore capitalizzazione, più 3,77%. Assolutamente sì, ricordiamo inoltre che Fonsai da inizio anno ha guadagnato quasi il 77%. La società ha approvato i conti del primo trimestre, che hanno evidenziato un utile vicino a quota 100 milioni di euro rispetto ai 29,1 milioni del primo trimestre del 2012, un salto quindi significativo. La raccolta premi è salita di quasi il 5% a oltre 2,6 miliardi grazie soprattutto ai settori vita e banca assicurazione, che sono salite rispettivamente del 37% e del 50% circa. Ancora Telecom Italia in mattinata bene, poi ha consolidato rialzo più 2,35% secondo miglior titolo. Sì, ricordiamo che ieri sera Telecom a mercati chiusi ha comunicato i conti del primo trimestre, che la società ha definito in linea alle attese. L'utile è sceso del 40% a 364 milioni di euro, mentre i ricavi sono calati del 3,2%. Il titolo ha poi recuperato oggi nel pomeriggio per chiudere a più 2,3%, dopo che praticamente la società e il presidente esecutivo Franco Bernabé hanno precisato sui due dossier relativi allo scorporo della rete e all'integrazione su 3 Italia. La società andrà avanti su entrambi i dossier con un'accelerazione particolare da quanto si è capito sullo scorporo della rete. Effetto Conti anche per Azimut, terzo miglior titolo più 2%. Sì, Azimut ha mostrato conti superiori alle stime, anche qui vi è stato un calo dell'utile del 34,6%, ma ha fatto meglio comunque del consensus. Azimut ha confermato il target della raccolta di 1,5 miliardi per fine anno e ha spiegato che se i mercati rimanessero così, quindi nella situazione attuale, la raccolta potrebbe anche essere bene superiore per la fine dell'anno. Allora, Lottomatica, anche qui siamo all'1,60% di rialzo come Mediaset, ai massimi dal settembre 2008 Lottomatica, quindi fra Lottomatica e Mediaset. Sì, il titolo Lottomatica, come dicevi tu, ha toccato questa mattina i massimi dal settembre del 2008, premiata anche in questo caso dalla diffusione di conti superiori alle attese, in particolare l'utile è salito del 29,7%, mentre alcuni esperti si aspettavano un incremento limitato al 12%. Per quanto riguarda Mediaset ha continuato il rally iniziato da metà aprile. Ieri hanno pubblicato i conti la controllata Mediaset Espana, oggi è stata la volta di A-Towers che ha mostrato conti in crescita, ma il mercato è in attesa soprattutto dei conti del gruppo che saranno approvati il 14 maggio. Il focus in particolare resta sulla raccolta pubblicitaria. Allora, tra chi ha perso anche Prismian, meno 4,90, Terna meno 3,17, Mediobanca meno 2,70, Diassori meno 2,20, e Campari meno 2 come Atlantia, Buzzi Unice meno 1,80, Intesa San Paolo meno 1,70%. Ancora migliori peggiori in assoluto, Meyer Tecnimont meno più 17%, Investimento e Sviluppo più 7,80, Iux più 6,20, Ambro Mobiliare più 4,90. I peggiori, oltre alla Pop Milano, D-Mail Group meno 6,90, Primi sui motori meno 6,60, Eukaidos meno 5,60%. Grazie Livia Zancanera, Radio Corriere Sole 24 Ore. Minuti, ultima parte di Focus Economia. Allora parliamo di Europa, che oggi celebra se stessa, centinaia di eventi organizzati nel vecchio continente, anche in Italia, come quello che è in corso in questi minuti al Bocconi di Milano. Eh sì, ancora in corso all'Università Bocconi a Milano, in occasione della Festa dell'Europa, l'incontro con gli studenti per un dibattito sul futuro dell'Europa, le prospettive di lavoro e l'imprenditoria. Presenti sia il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi che il vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani. Ogni anno infatti si ricorda la dichiarazione di Schuman del 9 maggio del 1950, che di fatto rappresenta l'inizio del processo di integrazione europea. Per celebrare quello che è il 63° anniversario della dichiarazione sono stati organizzati diversi eventi in tutta Europa e siamo in collegamento, lo ringraziamo, con il vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Tra l'altro lei è anche responsabile per industria e imprenditoria. Beh, dalla dichiarazione di Schuman ad adesso, insomma, l'Europa, forse Tajani, ha bisogno di un po' di una revisione, come si direbbe, per una macchina, no? Perché negli ultimi anni un po' di disaffezione si è creata rispetto all'euroentusiasmo dei decenni precedenti. Certamente, ma non dobbiamo dimenticare tutti i risultati ottenuti. Ricordiamo che viviamo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa e oggi siamo nel 2013 in pace. Siamo una realtà dove non esiste la pena di morte, dove i nostri figli possono circolare liberamente, dove c'è una moneta unica. Detto questo, siamo a metà del guado, dobbiamo andare avanti. Rimanere fermi significa commettere un errore grandissimo e non poter usufruire appieno dei risultati ottenuti. C'è, è vero, malcontento, lo abbiamo visto anche dai risultati elettorali italiani, anche in Grecia, anche in Finlandia, anche in Germania in qualche modo comincia a nascere qualche movimento euroscettico. Evidentemente la situazione economica e l'incapacità di risolvere immediatamente i problemi provoca tra i cittadini un sentimento negativo. credo che noi dobbiamo invertire un po' la rotta, un esame di coscienza e avviare una nuova stagione. Serve più Europa per uscire dalla crisi, non meno Europa, serve meno nazionalismo, serve più apertura, più solidarietà, serve concludere la stagione della super austerità, continuando a lavorare per il risanamento dei conti pubblici, ma avendo nello stesso tempo una forte azione a sostegno dell'economia reale. Ecco, è innegabile però, Tajani, che uno dei motivi che hanno portato questo euroscetticismo è dovuto anche alla percezione di un'Europa come, diciamo, maestra severa, che non dà però mai delle gratificazioni. Mi riferisco a tutto l'approccio molto molto di austerità degli ultimi due anni, e per cui soprattutto i paesi del sud Europa hanno visto l'Europa solo come, diciamo, elemento di rigore, ma non elemento anche di crescita, cioè non la maestra, per usare l'esempio, che quando studi ti dà comunque un premio, apprezza lo sforzo, come dicevano gli insegnanti di una volta, apprezziamo lo sforzo e il miglioramento continuo. Assolutamente sì, risanare i conti pubblici era doveroso, però i sacrifici, se non accompagnati da un'azione forte a sostegno del mercato interno, a favore dell'industria, per rafforzare la piccola e media impresa, diventano, se non inutili, addirittura dannosi. Ecco perché abbiamo avviato un'azione che porterà certamente ad avere una politica industriale europea più consistente, più competitiva, che permetta di realizzare nuova occupazione, di arrestare il fenomeno di crisi. Lavorare per le imprese significa risolvere il problema dell'accesso al credito, significa risolvere il problema della occupazione per i giovani. Penso per esempio ad azioni per ridurre le tasse alle imprese che assumono dei giovani. Questo vale per l'Italia, ma vale anche per altri paesi dell'Unione Europea. Insomma, permettere alle imprese di costruire. Oggi sono stato a Pavia, sono stato a Monza a parlare con tanti giovani, e qui alla Bocconi, per dire: guardate a quello che potete fare da grandi, non è obbligatorio andare a fare il funzionario pubblico, si può anche diventare imprenditori. A noi tocca creare le condizioni perché voi possiate accedere al credito, perché la burocrazia non sia soffocante, perché la pressione fiscale non vi uccida. Ecco, però immaginiamo, mi scuso di nuovo per la cattiva qualità della voce e della mia gola, ma immaginiamo che l'Italia, il governo Letta, prenda una misura per cui si agevolano per esempio le assunzioni dei giovani, defiscalizzando. Servono soldi, già abbiamo visto, ne abbiamo parlato oggi, di quanto difficile sia riuscire a levare l'IMU per l'IMU di giugno, forse sarà un posticipo fino a settembre sulla prima casa, forse esclusi i capannoni industriali e quant'altro. Servono soldi, allora lì il problema è: siccome tu non puoi aumentare la tassazione, e sì, puoi tagliare la spesa pubblica, ma non in misura così consistente, puoi renderla più efficiente la spesa pubblica, quello sì, tagliarla to court, insomma non spendiamo, non abbiamo una spesa pubblica molto più alta di quella della media europea, il punto è poter avere un deficit un po' più flessibile quando si fanno investimenti per il futuro, non quando si pagano gli stipendi, le pensioni, magari quelle d'oro o gli sprechi, ma quando si fanno investimenti per il futuro. E qui torniamo però a una diversa impostazione del deficit, Tajani. È una scelta dell'Italia. L'Italia, se vuole cambiare una certa impostazione, deve parlare con Bruxelles, confrontarsi e vedere se è possibile e cosa è possibile fare da questo punto di vista. Noi, per quanto ci riguarda, abbiamo tolto qualsiasi dubbio e qualsiasi pretesto sulla vicenda debiti della pubblica amministrazione nei confronti dei privati, cioè si possono rimettere in circolazione soldi senza violare il patto di stabilità, rispettando le regole per quanto riguarda il deficit con tutta la cautela, però abbiamo detto che il patto di stabilità non è la foglia di fico dietro la quale nascondersi per non pagare il debito pregresso. Poi ci sono i percorsi da fare, da concordare, da studiare, ma la dichiarazione che porta alla firma del vicepresidente Renzi e mia è chiarissima da questo punto di vista. E rimettere in circolazione soldi significa, per esempio, fare delle aste di botte per chiedere ai cittadini di investire sulle imprese, perché se uno presta soldi allo Stato per pagare i debiti con le imprese, significa che crede nelle imprese, non soltanto crede nell'amministrazione pubblica, ma crede soprattutto nelle imprese. E questo è un messaggio di fiducia che noi dovremmo dare come italiani e come europei a milioni di piccoli e medi imprenditori che rappresentano l'unica possibilità per uscire da questa crisi e dare ai giovani la possibilità di trovare un lavoro. questo credo che sia una cosa che si possa fare. Per il resto tocca all'Italia poi venire a discutere a Bruxelles per tutto quanto riguarda il resto. Mi pare che sia più difficile rispetto alla Francia e qui volevo arrivare alla Spagna intervenire sul Brexit, però ripeto, l'Italia non l'ha mai chiesto, non ha. Allora, intanto la Cassa Depositi e Prestiti ha fatto sapere ieri di aver ricevuto un totale di 1500 domande di anticipazione di liquidità in merito ai pagamenti della pubblica amministrazione, sono circa 6 miliardi di euro. Per quello che riguarda appunto il fatto che voi avete sbloccato a livello europeo il rimborso da parte dello Stato dei soldi che deve alle imprese, diciamo non contabilizzato nel deficit cattivo. Però lei ha detto ieri di essere sicuro che l'Italia uscirà dalla procedura di deficit eccessivo. E va bene, sì, io mi chiedo una cosa, però perché la Spagna e la Francia hanno ottenuto 2 anni in più per arrivare al pareggio di bilancio, cioè al deficit zero, e noi invece siamo ancora vincolati agli accordi presi da Berlusconi e poi rinnovati da Monti? Questo lo deve chiedere a me, no, dico, ma... al governo italiano, e poi vedere se questa richiesta può essere accolta e accettata. Ma secondo lei, che lei che idea si è fatto? Al termine dell'istruttoria, però l'Italia non ha mai chiesto, ha preso degli impegni e quelli sono. Vedo, tocca ai governi italiani. Ma lei che idea si è fatto da italiani in questo caso? Cioè che noi abbiamo un debito troppo alto, siamo troppo pericolosi per l'Europa, più della Francia, della Spagna? Noi abbiamo un debito altissimo, però è anche vero che abbiamo un risparmio privato che in altre parti non c'è, anche se la crisi comincia a far erodere una parte di questo risparmio privato, però è una nostra forza quella del risparmio privato che rappresenta certamente un elemento di garanzia per la tenuta del sistema economico. Ecco, vicepresidente Tajani, mi dica un'ultima cosa, quando lei dice è conclusa la stagione della sovraausterità, cioè di una austerità eccessiva, lei ritiene che poi concretamente misure per poter non contabilizzare nel deficit cattivo spese per investimenti futuri di carattere europeo, penso alle infrastrutture, penso appunto alle agevolazioni fiscali per i neoassunti se sono giovani e quant'altro, queste misure arriveranno solo dopo settembre, solo dopo le elezioni tedesche? È presto per entrare nel dettaglio. Però certamente le parole di Barroso, le parole di Rehn, la decisione di concedere tempi diversi alla Francia e alla Spagna, il documento che porta la firma di Rehn e mia sul pagamento dei debiti pregressi alla pubblica amministrazione, sono tutti segnali che dicono quanto le istituzioni comunitarie oggi stiano facendo per valorizzare una politica della crescita, il fatto che ci siano già 2 consigli europei dedicati alla politica industriale, una a giugno e una a febbraio dell'anno prossimo, che ci sia a maggio un Consiglio europeo dedicato all'energia, che è uno dei grandi temi della politica industriale, perché il prezzo dell'energia è un nodo chiave come quello dell'accesso al credito, quindi è un tema sul quale l'Europa comincia a discutere, non si parla più solo di macroeconomia, non c'è più solo da decidere a livello di Ecofin la grande strategia macroeconomica, ma si comincia a parlare di economia reale, di costo dell'energia, di politica industriale, prepareremo un documento sull'industria della difesa, insomma c'è un'inversione di tendenza, ora poi bisogna trasformarlo in decisioni pratiche e farlo per quanto mi riguarda credo in tempi più rapidi possibili. Ma secondo lei l'atto anche più sostanziale di questa inversione di tendenza arriverà già da giugno dal Consiglio europeo? Vedremo, io mi auguro che sia così. Credo che serva a fianco al fiscal compact, un industrial compact, un growth compact, cioè un progetto per la crescita, un progetto per la politica industriale che sostenga tutto il lavoro che abbiamo fatto invertendo una linea di tendenza. Ora l'Europa crede molto di più nell'industria, insomma non solo più deficit e debito ma crescita. Sì, mi piace l'idea che oltre ha un elemento di compattezza fiscale che poi in inglese vuol dire sui conti pubblici a livello europeo, vi sia anche un elemento di compattezza sulle politiche di crescita industriale ed economica, quindi siamo un'unica casa europea non solo sul controllo che va fatto dei conti pubblici ma anche sulle politiche di crescita economica. Grazie al vicepresidente della Commissione europea e responsabile per l'industria e l'imprenditoria Antonio Tajani. Buonasera, grazie a voi. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Domani torniamo in diretta io e la mia tonsilla dalle 17 in poi. Intanto l'augurio di buona serata al tecnico, dice forse, e io gli faccio, gli rispondo con gesti scaramantici. A domani alle 17.